il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. È andato ad uno spettacolo equestre di grande cuore e passione, made in Polesine, celebre in tutta Europa, ma forse poco noto in Italia, ovvero il Jonah Show dell'azienda agricola della famiglia Caniato, l'annuale premio assegnato dai giornalisti agroalimentari e ambientali del Veneto, riuniti nell'associazione ARGAV. È un riconoscimento che premia personaggi o esperienze che mettono in luce la nostra regione e promuovono in particolare i temi dell'agricoltura e dell'ambiente. Ecco la motivazione ufficiale del premio. Al Jonah Show per aver innovato l'arte equestre valorizzando il rapporto diretto tra uomo e cavallo, improntandolo al reciproco rispetto, alla passione, all'umiltà come era originariamente nella tradizione rurale. Dedichiamo quindi questa puntata del quadrifoglio al Jonah Show. Abbiamo con noi oggi Osvaldo Caniato, capostipite della famiglia, ma prima sentiamo il commento del presidente dell'ARGAV, Fabrizio Stelluto. Abbiamo scelto il Jonah Show della famiglia Caniato di Castel Guglielmo in provincia di Rovigo perché, nato da una famiglia agricola, in un'azienda agricola, è uno spettacolo che ha saputo evolversi dimostrando come ci può essere uno spettacolo equestre con un ammaestramento che potremmo definire dolce. Infatti la cosa spettacolare non sono solo il numero dei cavalli in scena, ma soprattutto il fatto che questi cavalli vengono comandati a voce, quindi senza alcun ausilio che possa in qualche maniera far pensare ad una coercizione. È proprio una sorta di complicità fra uomo e animale. Signor Osvaldo, ci racconta come è nata, come si è sviluppata questa idea che ha portato questa azienda agricola Caniato a organizzare uno show che adesso è noto soprattutto fuori d'Italia? Adesso raccontare tutto quello che è stato, diciamo, la strada, il percorso dovuto fare per arrivare a questi livelli, cioè non è che basterebbero 24 ore. Mi soffermo solo a dire questo: abbiamo creduto in quello che era, diciamo, un motivo per cui essere agricoltori, ma soprattutto essere italiani. Essere italiani, per lo più agricoltori, vuol dire essere fantastici, avere, diciamo, il senso dell'innovazione, che non è solo quella di ritrovare o di riprodurre nuovi trattori, nuovi, no, inventarsi un lavoro, di quello però che si sa già fare, arte equestre. Noi abbiamo voluto, volevamo e abbiamo creduto in questo, proprio trasformare quello che è la doma di un cavallo in doma dolce, così viene chiamata, il cavallo libertà. Ne abbiamo fatto di questo signor cavallo, sua eccellenza, questo è il nome a cui spetta di diritto al cavallo. Ne abbiamo fatto veramente una nostra creatività e questo, grazie a lui, grazie al cavallo, ci ha permesso di continuare, di cominciare, di iniziare questo percorso nel mondo. Arrivare a Monte Carlo, al Bolzano Circo di Mosca, arrivare a San Pietroburgo, oggi siamo in tutta la Germania, Finlandia, Norvegia, Svezia. Ci piace raccontare la nostra storia, quella di veri agricoltori. Quindi ecco, voi vi definite agricoltori quindi? Sì, parte sempre dalla terra. Non dimentichiamoci mai che è un prodotto il primario l'agricoltura. Ed è primario anche quell'affiatamento che hai per i tuoi animali, chi le mucche, chi i vitelli, noi i cavalli. Di loro abbiamo fatto, diciamo, il nostro diciamo, supporto proprio come attività. Abbiamo creduto in questo animale. E quando credi in quello che fai, difficilmente sbagli. Difficilmente l'opinione pubblica ti dà contro. Devi credere in quello che fai, io ne sono convinto. Come si svolge il vostro show? Perché io non l'ho mai visto, credo quasi nessuno degli ascoltatori. Andiamo sulla fiducia anche di questo premio che vi hanno dato i giornalisti agroambientali del Veneto. Che cos'è esattamente? Spiegare un'emozione via radio sarebbe quasi impossibile. Cercherò di darvi, ecco, un esempio. Il saper amare un cavallo è un conto. Il saper trasformare o, diciamo, trasmettere al pubblico, a chi ti guarda, questo amore che tu hai per questo animale e trasformarlo in emozione. Ecco, noi vogliamo questo con i nostri spettacoli, emozionare il pubblico. Soprattutto non nel momento in cui lo fai, ci stai esibendo, artore e cavallo insieme, un tutt'uno, ma nel momento in cui le persone, i personaggi, voi della platea, sarete a casa, ritroverete il piacere di quello che avete visto. Allora diventa veramente, wow, un grande spettacolo. Mi dispiace interrompere l'entusiasmo con cui ci sta raccontando queste cose, ci dobbiamo fermare per una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Osvaldo Caniato, capostipite della famiglia Caniato, un'azienda agricola che ha dato il vita ad un grande show, il Jonah Show, uno show equestre che ha vinto quest'anno il premio Argav, ovvero il premio dei giornalisti agroambientali del Veneto. Nel vostro spettacolo ci sono i cavalli. Quanti sono i cavalli che voi avete e quante persone lavorano un po' al vostro show? Non so poi come definirle, perché non sono operatori, cavallerizzi, non siete circensi. Chi lavora nel vostro show? Beh, come dicevo poc'anzi, parte tutto da una famiglia. Ci sono tre generazioni, io e il nonno, i figli, tre figli, di cui poi loro, altri figli. tre generazioni insieme in una famiglia unica, che non ha nulla a che fare con l'arte circense, in quanto noi non siamo di famiglie circensi. Lo stiamo diventando però, ce lo stanno attribuendo, ci siamo meritati questo titolo. Ecco, volevo dire, a parte che credere, ognuno di noi ha un ruolo specifico. Chi emozionare con il volteggio acrobatico, ed è il caso di un figlio. Chi mostrare il cavallo in libertà per quello che può essere la libertà, il fascino della libertà, la dolcezza. L'altro invece, altri con i volteggi acrobatici aerei, abbiamo dei ragazzi. Poi un mio nipotino, 16 anni, eccezionale nelle poste ungare. Lo vedremo in futuro senz'altro anche lui, sarà... penso e dovrà partecipare al Circo di Monte Carlo. Diego Giona, un grande personaggio, diventerà senz'altro una grande persona. Un vostro cruccio è che siete poco presenti nel Veneto perché non vi chiamano a fare degli spettacoli. Vi potremo vedere in futuro nelle nostre parti? Non è che non ci chiamano, il fatto è che quello di cui noi abbiamo bisogno per mettere in filo, ecco, per mettere in atto uno dei nostri, diciamo, spettacoli, occorrono troppe realtà, dalla sabbia particolare, dai circuiti, i permessi, le autorizzazioni, i dinieghi. Noi purtroppo in questo, lasciatemelo dire, perdonatemi chi vuole intendere intenda, siamo troppo lunghi. Il tempo di avere un permesso si è già affievolito, il desiderio e la volontà di fare un qualcosa che, permettetemi ancora di dirlo, la Germania ci ha capiti prima, la Francia ancora prima, la Russia ci ha captato subito, Mosca, il Bolshoi Circus, Turchia, Istanbul, Ankara, Antalya, cioè viviamo altre realtà purtroppo. E chi lo sa questo può darmi ragione di questo. Mi auguro che in futuro, come nel cassetto, perché ce l'ho nel cassetto questa idea, una tournée tutta veneta. Vorrei cominciare da Padova, da Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo, cioè un qualche cosa, non insegnare, mostrare che noi polesani, noi veneti, abbiamo ancora qualcosa da insegnare, sì, da spiegare, da raccontare, soprattutto a noi polesani, a noi veneti, perché ricordiamocelo ragazzi, noi veneti siamo forti in tutto il mondo. Non per questo a Mosca, come in Turkmenistan, eccetera, ci hanno chiamato e ci chiamano la famiglia dei Marco Polo. Dunque ci sarà un motivo. Ecco, visto che voi vi considerate contadini e però siete diventati forse tutt'altro con la vostra attività, un consiglio ai contadini di oggi, ai giovani agricoltori, perché ci sono molti giovani che stanno pensando anche di ritornare all'agricoltura come uno sbocco, ma anche proprio per il rapporto concreto con la terra. Un consiglio a chi porta avanti un'azienda agricola oggi? Innanzitutto, noi non è che non ci sentiamo, siamo gli effetti tutto coltivatori diretti. L'unica parola che posso dire, spiegare o insegnare a questi ragazzi, visto che ho 63 anni, questi giovani agricoltori, la fantasia. Applicate la fantasia, se ne avete, la vostra fantasia prenderà il volo prima o poi, non preoccupatevi, l'importante è che sappiate far credere agli altri quello che avete intenzione di fare, non pensate nelle cose di parcheggio oppure no, dovete esprimervi, dovete alzare la bandiera di quello che avete intenzione di fare, dovete soprattutto credere in quello e per cui siete dotati a fare, se credete nell'agricoltura, nel mais o nella barbabietola o nel frumento, non potete credere nel cavallo, ma se avete qualcosa in mente del cavallo o di animali o anche nell'agriturismo, in quelle formule, diciamo, nuove, innovative, fantastiche, ecco, la fantasia, adoperatela, sono strumenti che abbiamo solo noi veneti e voi ce l'avete, perché pensateci bene, siete fantastici, se lo siete esprimetevi, altrimenti rimarremo sempre, avete capito dove? Wow! Grazie signor Caniato. Passiamo adesso ad alcune notizie. Descargar montagna, ossia la discesa del bestiame dopo l'alpeggio, è il tema che quest'anno caratterizza l'edizione 2015 del Presepio Artistico di Segusino, un borgo a cavallo tra le province di Treviso e Belluno, rinomato soprattutto per la produzione del formaggio Czech. Un presepe che attira ogni anno oltre 20.000 visitatori e occupa una superficie di 100 metri quadri, realizzato con passione e cura certosina dall'Associazione Parrocchiale Amici del Presepio. La struttura conta di 5 scene, di cui 2 variano di anno in anno, in modo da offrire ai visitatori una rappresentazione sempre diversa. La scelta del tema di quest'anno è legata all'uscita del libro Vivere sull'Ert, ovvero Vivere in Pendio, scritto dal segusinese Mariano Lio, che racconta in modo dettagliato le fatiche e i momenti che scandivano la vita dei contadini segusinesi. Soprattutto, spiega Carlo Stramare, presidente dell'associazione, volevamo lanciare un messaggio teso alla rivalorizzazione del nostro territorio e dei suoi prodotti per raccontare ai più giovani come sia sempre stata la natura a dettare i tempi all'uomo e non viceversa. Il presepio artistico di Segusino sarà visibile al pubblico tutti i pomeriggi da Natale fino al 7 febbraio 2016 e nei giorni festivi anche al mattino. Passiamo ad un altro argomento, di attualità i pesticidi. Dal 15 dicembre è obbligatorio il patentino per gli utilizzatori professionali che ne dovrebbero essere adeguatamente informati. Gira però la voce che quest'obbligo si rivolga anche a chi l'orto lo coltiva in giardino e magari coltiva i fiori sul balcone. Ma è davvero così? L'Unione Europea dice di no, non ci chiede questo, perché la direttiva 128 del 2009 sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi si applica solamente agli operatori professionali del settore. Non solamente a chi li utilizza, ad esempio, nella campagna, ma a partire dal 15 dicembre devono anche i rivenditori di pesticidi per uso professionale devono avvalersi di personale in possesso del patentino, ossia di un certificato che attesti l'acquisizione di conoscenze specifiche sull'uso sostenibile dei pesticidi e i rischi ad essi associati. Perché i rivenditori? Perché chi compra questo tipo di pesticidi deve infatti essere informato sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi all'uso degli stessi. I microdistributori, invece, che vendono esclusivamente prodotti per uso non professionale e che non vendono prodotti tossici, cancerogeni o mutageni, possono essere invece esentati dall'obbligo di ottenere questo patentino. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.